Respiro. Buon pomeriggio, ben ritrovati da Laura Bettini. Questa nuova puntata di Respiro ci porterà a parlare di agricoltura. Due saranno i temi: il primo riguarda le fattorie didattiche, il secondo invece un sistema che si sta mettendo a punto, tra l'altro anche in Italia, per la distribuzione di anticrittogamici e antifungini nei campi. Dicevo, le fattorie didattiche. Poco tempo fa una ricerca della Coldiretti riferiva che con un aumento dell'11% rispetto allo scorso anno era arrivato in Italia il boom delle fattorie didattiche, quelle cioè in cui si era deciso di attrezzarsi per offrire ai bambini e agli insegnanti la possibilità di fare una esperienza di vita in campagna. All'inizio di questo anno scolastico erano operative ben 1093 aziende agricole impegnate appunto a far conoscere alle scuole i loro prodotti e gli animali da campagna. Le fattorie didattiche si trovano ormai un po' dappertutto nel nostro paese, la più alta concentrazione però è in Piemonte e Veneto. Per quanto ci riguarda ne abbiamo visitata una che si trova in Lombardia, è l'azienda Dosso Badino a Monticelli Brusati in Franciacorta, quindi provincia di Brescia. Come azienda agricola Dosso Badino esiste da molto tempo, come fattoria didattica invece esiste da quando le redini le hanno cominciate a tenere in mano le sorelle Carola e Alessandra Morandi, che hanno preferito la via dell'agriturismo e della fattoria didattica a quella più tradizionale dei genitori, che era fatta di agricoltura e molto allevamento. Incontriamo Alessandra Morandi in una bruttissima giornata di pioggia, ma in un bellissimo contesto naturale, va detto. Parliamo del disciplinare che regola in Lombardia le fattorie didattiche. Disciplinari non identici ma simili esistono anche in tutte le altre regioni comunque. Il disciplinare risale al 2002, quindi possiamo dire che è piuttosto recente ed è andato a normare quelle che in ambito agricolo era definita l'attività educativa o ricreativa. Visto che sul territorio era sempre più presente questo tipo di attività, nel 2002 ha emanato un decreto che stabilisce quali sono i parametri per i quali un'azienda agricola che svolge attività ricreativa culturale possa usufruire del marchio della fattoria didattica coniato proprio dalla regione Lombardia. Alcune richieste, diciamo, che vengono fatte, quali sono? Alcune richieste sono la carta della qualità, quindi bisogna sottoscrivere questo documento dove noi garantiamo che vengono rispettate le norme igienico-sanitarie, che l'agricoltura che viene svolta all'interno della nostra azienda agricola abbia un occhio di riguardo per l'ambiente, che le strutture siano adatte per accogliere scolaresche. Ed inoltre dobbiamo partecipare ad un corso formativo di 120 ore che spazia su ambiti diversi, dall'ambito psicologico a quello ambientale a quello agricolo, giusto per avere un quadro generale di quella che è la formazione, di quelle che sono poi le attività e le tematiche che noi andremo a toccare con i ragazzi di diverso ordine scolastico. Sì, quindi se questo è il quadro, poi ciascuno lo declina un po' a suo modo. Voi in particolare che cosa proponete ai ragazzi? Bambini soprattutto, più che ragazzi forse? Ha detto bene, ogni azienda sviluppa i propri programmi in base proprio alle peculiarità dell'azienda agricola. Questo fa sì che ogni azienda possa sviluppare al meglio le tematiche sulle quali si sente più ferrato. All'interno della nostra azienda agricola vengono proposti diverse programmazioni. Entrambe le programmazioni che vengono fatte prevedono il coinvolgimento in prima persona dei bimbi o dei ragazzi che vengono all'interno dell'azienda, appunto perché possiamo dire che il must di una fattoria didattica è quello di rendere il bambino protagonista della giornata. All'interno delle nostre aziende vengono soprattutto scuole materne, anche perché all'interno di una fattoria didattica spesso e volentieri non vi è la promiscuità di gruppi. Quindi anche per le insegnanti stesse questo può essere un ulteriore motivo di garanzia e possiamo dire anche di tranquillità, perché la giornata poi riesca al meglio. oltre che a partecipare a un corso di 120 ore, poi mi preme sottolineare che non si ferma qui la formazione dell'agricoltore in questo settore, ma ogni anno ci vengono riproposte, sempre dalla regione Lombardia, 30 ore di aggiornamento, appunto perché l'imprenditore agricolo viene informato costantemente anche su ciò che viene affrontato all'interno delle scuole, questo per rendere i nostri programmi sempre attuali. Ci sono varie attività che vengono svolte, tra le tante c'è anche questa piccola raccolta che è di un museo contadino. Vogliamo dare un'idea a chi ci ascolta di che cosa può trovare venendo qui? Allora, venendo in azienda ci si trova immersi nel mondo rurale. Abbiamo ricreato ad esempio questo piccolo spazio che rievoca i tempi dei nonni, dove ci sono alcuni degli attrezzi che venivano utilizzati all'interno della nostra cascina, e in questo modo noi possiamo far capire ai piccini, ai più piccoli, fino ad arrivare anche ai ragazzi dell'istituto superiore, e a volte devo dire anche ai ragazzi che frequentano l'università, il passaggio dell'attività rurale, che una volta veniva svolta in toto in maniera manuale ed oggi invece è tutta meccanizzata. Come azienda agricola cosa producete? L'attività principale è linea vacca vitello, che viene poi utilizzata all'interno del nostro agriturismo. Abbiamo poi integrato con altre specie, quindi ovi caprini, animali di bassa corte, equidi, quindi cavalli e asini, ed inoltre gli 8 ettari che abbiamo attorno al nostro cascinale vengono coltivati a l'oietto oppure a mais, questo per il fabbisogno dei nostri animali. Poi che cosa proponete ai bambini? Perché vedo dei tavoli con tante piccole altre cose che possono fare nel momento in cui sono qua. Magari lo studente che viene qui, lo studente universitario, ha altri interessi, sarà più sull'attività, come producete e così via. Ma il bambino? Il bambino spesso e volentieri, ad esempio, viene scelto il laboratorio del latte, dove in piccolo facciamo vedere la lavorazione del latte, la scrematura, quindi il fatto che loro stessi possono scremare il latte, vedere la panna, dalla panna ricaviamo poi il burro, e anche vedere la mungitura che viene fatta manualmente dai bimbi. Un altro laboratorio che viene molto frequentato è ad esempio quello dell'orto, dove i bambini hanno proprio, ogni bimbo ha un attrezzo, vengono spiegate loro le fasi della lavorazione, ci si sposta all'interno del terreno, facciamo vedere loro le prode, com'è un orto, come viene scelto ovviamente il terreno per fare l'orto, qual è il clima migliore, il fatto che il terreno sia esposto al sole, così possono capire in maniera pratica quali sono anche le fasi lavorative e come si ottiene poi da un seme il frutto. Grazie ad Alessandra Morandi dell'azienda Dosso Badino, Monticelli Brusati, Franciacorta, Lombardia. Poiché parliamo di campagna, continuiamo. Anni fa, non moltissimi, ma comunque abbastanza, mi capitò di essere investita dalla nube di anticrittogamico che un contadino stava spruzzando sulla sua vigna. La stava spruzzando senza molto discernimento, evidentemente, perché colpì anche me, che non era una pianta e non era assolutamente nel vigneto. Ma tant'è, andò così. Ecco, con le macchine che sono state inventate da allora ad oggi, probabilmente non mi capiterebbe più. Luca Corelli Grappadelli, dell'Università di Bologna, è il responsabile scientifico del progetto europeo ISAFRUIT, il cui obiettivo finale consiste nell'incrementare il consumo di frutta nella popolazione europea con un occhio di riguardo alla salvaguardia ambientale. Nell'ambito di questo progetto si sta sviluppando, tra l'altro anche presso l'Università di Torino, un prototipo di macchina irroratrice in grado di regolare automaticamente la distribuzione in funzione delle caratteristiche dimensionali del bersaglio, dello stato di salute della pianta e delle condizioni ambientali. L'intervista è di Ambra Notari. È una macchina che è un vero concentrato di tecnologia messa al servizio dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente. È il lavoro di tre gruppi di ricerca, fra cui uno italiano, del professor Paolo Balsari del DEIAFA, che è un dipartimento della Facoltà di Agraria dell'Università di Torino. Gli altri due centri sono in Olanda, all'Università di Wageningen, e in Polonia, il centro di ricerche di Skierniewice. Ognuno di questi tre centri ha sviluppato specificamente uno dei tre tipi di sensori che sono a bordo di questo atomizzatore, il quale è una macchina che applica sostanze chimiche, agrochimici, pesticidi, antiparassitari agli alberi dei frutteti in modo intelligente, perché li applica tenendo conto della presenza o assenza degli alberi, delle dimensioni della loro chioma, della distanza fra quegli alberi e quelli che si definiscono in gergo tecnico obiettivi, fra virgolette, sensibili, che possono essere un fosso di scolo, uno stagno, un pozzo o la vicinanza ad abitazioni. E occorre impedire che ci sia una deriva di queste sostanze verso questi obiettivi sensibili. Il terzo elemento di innovazione applica sostanze solo ad alberi che hanno bisogno di queste sostanze, perciò ci può essere un frutteto dove sta iniziando un'infezione fungina e alle primissime fasi alcuni alberi sono colpiti, altri ancora no, vengono trattati solo gli alberi che mostrano i sintomi dell'infezione. I tre centri di ricerca hanno sviluppato Torino il sistema che permette all'atomizzatore di sapere se sta passando davanti a un albero oppure se c'è un buco fra due alberi o se manca un albero e quanto è spessa e quanto è alta la chioma di quell'albero. Questa informazione guida il ventilatore sull'atomizzatore e gli fa cambiare la portata, l'intensità con cui viene spruzzato il prodotto. Il gruppo polacco ha invece messo a punto il sistema che misura la direzione e l'intensità del vento e grazie a un GPS sa dov'è l'atomizzatore e quindi se si accorge che c'è un vento che spira nella direzione in cui c'è un obiettivo sensibile, quando l'atomizzatore sarà in prossimità di quell'obiettivo sensibile vengono spenti gli ugelli che spruzzano nella direzione dove noi non vogliamo che ci sia deriva oppure ne abbassano l'intensità in modo che il getto non arrivi a quell'obiettivo. Il gruppo olandese invece sta lavorando al sensore, diciamo così, che misura la febbre alle piante, cioè si accorge se c'è un'infezione in atto di alcuni tipi di funghi. Grazie ad Ambra Notari per l'intervista, a Luca Corelli Grappadelli, professore dell'Università di Bologna. Grazie a tutti voi per l'ascolto. L'appuntamento con Respiro è per la prossima settimana alla stessa ora, ma ci trovate anche su internet all'indirizzo www.radio24.it. Un saluto da Laura Bettini.